quand à Naples tu savais que je t'adore, quand il décorera un ouragi sol, sainte belle nature d'ora. El Napoli questo potrà speranza che non spara più, versata alle refre de passione. Me basta sulla mano del mare Turino, per mare de triezze belle l'occhio rogio. L'aria giardina, l'ufile voce, nu core argente, che ride o chiagnere, e può sempre canetà. Si canta a Napoli, tu vuoi sapere, per rose, per viola, per uccelli umar, e mai per fate sola, per all'amore, per figliola, perché chi nasce in questa città, passa cantando tutta gioventù, serata del luna, mattinata sola. Popare de triezze bene l'occhio rosa, un'aria giardina e l'ufile voce, un cuore ardente che ride o piagne e va sempre canadà.